conosciuto 16 biondine, ridenti come tante melagrane. A tutte canto questa mia canzone, ma una soltanto ne vorrei baciar. Serenata per 16 bionde, tu che sei la messaggera del mio cuore, come un volo di farfalla senza far capire nulla, sfiora tutte e bacia la più bella. A colei che al tuo bacio risponde, puoi parlarle di questo mio amore. Mentre il canto si diffonde, dille che il mio bene è grande, serenata per 16 bionde. Ho detto al cuore sceglimi una bionda, e lui sempre a domani mi rimanda. Ed io perché qualcuna mi comprenda, la serenata a tutte voglio far. Serenata per 16 bionde, tu che sei la messaggera del mio cuore, come un volo di farfalla senza far capire nulla, sfiora tutte e bacia la più bella. A colei che al tuo bacio risponde, puoi parlarle di questo mio amore. Mentre il canto si diffonde, dille che il mio bene è grande, serenata per 16 bionde. A colei che al tuo bacio risponde, puoi parlarle di questo mio amor. Mentre il canto si diffonde, dille che il mio bene è grande, serenata per 16 bionde. O serenata voleva, o serenata voleva.